Affascinato aveva visto dal porto una 5-10 farfalle bianche volare verso la nave miracolosamente tenendosi in bilico sopra i cavalloni, sparendo e ricomparendo tra le valli e i monti che il mare copiava dalla terra, frecce candide che ostinatamente si dirigevano al bersaglio vincendo angoscia e paura. Solo perché nel luogo verso il quale puntavano gridava un'angoscia maggiore, una paura più forte reclamava a gran voce una mano da stringere, una parola incitante, un aiuto fatto magari solamente d'occhi amici tetti da lì a nu. Ah.